prima edizione. L'informazione del mattino. Buona giornata da Simone Spezia e benvenuti a prima edizione, l'appuntamento con l'informazione del mattino di Radio 24. È il 20 di giugno ed è il primo giorno dell'esame di maturità. Anche di questo parleremo nel corso di prima edizione, riascolteremo qualche voce di ex maturandi eccellenti o famosi che insomma abbiamo sentito ieri nella nostra trasmissione, ieri sera, una trasmissione che abbiamo dedicato. Dal lato delle notizie di attualità, ci sono state proprio da pochissimo le conclusioni del vertice G20 e faremo il punto sulla sorte di Hosni Mubarak. L'ex presidente egiziano pare che sia ad un passo dalla morte. Prima di tutto il giornale radio. Il segnale orario vi è offerto da Assicom, il partner ideale per la gestione del credito in Italia e all'estero. Assicom.com. Sono le 6. GR 24, il sole 24 ore. Egitto, mistero sulla morte dell'ex presidente Mubarak, è in coma, dice il suo avvocato. G20 accordo nella notte su crescita e debito dell'Eurozona, soddisfatto Obama, Monti, non sono previsti aiuti per l'Italia. Maturità, scatta l'esame di Stato per quasi 500.000 di giovani, al debutto le tracce per via telematica. Calcio Euro 2012, nei quarti di finale sarà Inghilterra-Italia, gli inglesi vincono il gruppo D davanti alla Francia. Di nuovo una buona giornata dunque da Simone Spezia e dalla redazione. L'ex presidente egiziano Hosni Mubarak sarebbe clinicamente morto, lo scrive l'agenzia di stampa MENA, ricordando che l'ex reis era stato condannato al carcere a vita il 2 giugno per il suo coinvolgimento nell'uccisione di dimostranti antiregime all'inizio dell'anno scorso. Le sue condizioni di salute nel carcere di Tora si erano progressivamente aggravate, sinché in serata è stato colpito da ictus e trasportato all'ospedale militare di Mahdi. Il suo avvocato riferisce che sarebbe ancora vivo, ma in coma. Nella notte si è concluso il vertice dei leader del G20 a Los Cabos in Messico. I grandi hanno raggiunto un accordo per un piano coordinato per la crescita e l'occupazione. Per quanto riguarda l'economia dell'Eurozona, prenderanno misure per interrompere il circolo vizioso del debito, il circolo vizioso fra banche e debito sovrano, si legge in un comunicato. I leader del G20 sono a favore della volontà europea di integrare maggiormente il sistema bancario. Il direttore del Fondo Monetario Lagarde dice che c'è preoccupazione per l'area euro, ma il piano di Los Cabos è una buona base di partenza. A parlare, come sentite, anche il presidente americano Barack Obama, che qua si sofferma sulle rassicurazioni dei leader europei dal lato delle mosse per placare i mercati. L'Europa va verso una maggiore integrazione, non verso un'implosione, dice. Sulla situazione commenta: noi non possiamo avere il controllo di ciò che accade in Europa, ma vogliamo che gli europei abbiano il controllo di ciò che accade a casa loro. Sempre in serata il segretario al tesoro Geithner aveva parlato del varo di misure per far sì che paesi che stanno affrontando le riforme come la Spagna e l'Italia possano prendere prestiti a bassi tassi di interesse. Risponde il presidente del Consiglio Monti: per l'Italia il tema bailout non si pone proprio, per la Spagna limitatamente alle banche. Julian Assange si è rifugiato nell'ambasciata dell'Ecuador a Londra e ha chiesto asilo politico. Lo ha reso noto ieri in una conferenza stampa il ministro degli esteri ecuadoregno Ricardo Patino, precisando che la richiesta dell'ideatore di Wikileaks è allo studio. 7 migranti sono dispersi da ieri mattina nel canale d'Otranto dopo che la loro piccola imbarcazione con a bordo altre 4 persone, che sono state salvate, naufragata a circa 6 miglia dalla punta del Salento tra Leuca e Torre Vado. Lo scafo naufragato è stato localizzato. La prua emerge mentre il resto dell'imbarcazione è sommerso dall'acqua. Al via l'esame di maturità oggi per quasi 500.000 di giovani, al debutto il plico telematico, non più tracce cartacee recapitate alle scuole ma computer, password criptate e logaritmi. Ci spiega cosa succederebbe in caso di problemi Emanuele Fidora, a capo della Direzione Generale per gli Studi, la Statistica e i Sistemi Informativi del Ministero dell'Istruzione. Al microfono di Maria Piera Ceci. Noi abbiamo affiancato al presidente di commissione un referente di fede che è particolarmente invece esperto in tecnologie, un tecnico in qualche modo. Però comunque, se ci dovesse essere un disguido, un malfunzionamento di quella macchina in quel preciso momento, ci sono una serie di sistemi di sicurezza che abbiamo messo in piedi, a partire dagli uffici scolastici provinciali, gli ex provveditorati per intendersi, nel senso che noi poi provvederemo a mandare, laddove sia possibile, le tracce in, sia con la mail certificata, la posta certificata della scuola, che con i fax alla scuola. Ovviamente, se ci dovesse essere un blackout totale, proprio parliamo di energia elettrica totale, quindi non c'è modo di comunicare con la scuola, provvederemo a mandare a lei il cartaceo. Insomma, dovrebbe essere però un caso abbastanza così remoto, speriamo. È il caso in cui la scuola è effettivamente a corto di energia elettrica. Sarà l'Inghilterra domenica a sfidare l'Italia nei quarti degli europei di calcio. Rune e compagni hanno superato ieri sera l'Ucraina. Ne parleremo tra un attimo nello speciale europei. Dunque, ascoltiamolo. Poi c'è Roberto Galullo con Sottotiro e ci ritroviamo subito dopo. Prima edizione, l'informazione del mattino. Sono le 6:14 minuti e 44 secondi. Qualche altra notizia arrivata nella notte. Innanzitutto quella del possibile candidato alla vicepresidenza degli Stati Uniti, nel caso di vittoria dei repubblicani naturalmente. Mitt Romney sta valutando quale debba essere il ticket, l'uomo che farà il ticket con lui. Ebbene, viene attentamente considerata, si apprende direttamente al candidato repubblicano, la possibilità che sia il senatore Marco Rubio, che è un senatore della Florida di origine cubana. Altra notizia invece di finanza arriva da News Corp, che ha offerto 2 miliardi di dollari per acquistare l'australiana Consolidated Media, con la quale salirebbe al 50% di Foxtel. Quindi 2 miliardi di dollari di acquisizione per News Corp. Prima edizione. Vediamo dunque di dare un'occhiata alle prime pagine dei quotidiani oggi in edicola, alle scelte editoriali che vengono fatte per quanto riguarda prevalentemente i titoli, come sapete, in questo ambito. E poi ci sarà il nostro Alessandro Milan, come tutte le mattine, più tardi, intorno alle 7:20, insomma, comunque dopo il GR delle 7, per fare un punto un po' più approfondito. Ovviamente in primo piano ci sono i temi economici, con letture diverse che vengono date dai giornali. Il sembra prevalere, insomma, questa frase del Presidente del Consiglio Mario Monti, che dice che sono decisivi i prossimi 10 giorni. Questo quello il titolo che sceglie il Sole 24 Ore: 10 giorni per salvare l'euro. Quello che sceglie la Stampa: Europa nell'angolo, Monti decisivi i prossimi 10 giorni. Il Corriere della Sera parla di un argine alla speculazione come titolo di apertura, il Messaggero di piano per fermare lo spread. Però non è solo sull'economia, o almeno non solo sull'economia internazionale, che ci si sofferma, appunto, sulle prime pagine dei quotidiani. C'è molto sul lavoro, sugli esodati, sulla riforma del mercato del lavoro, molto sugli esodati, e poi ancora una volta in primo piano la trattativa tra Stato e mafia, che apre da qualche giorno la prima pagina del Fatto Quotidiano e che oggi approda con una certa energia anche sulla prima pagina della Repubblica. Iniziamo però dal Sole 24 Ore. C'è questo titolo su Monti: 10 giorni per salvare l'euro e il G20 accelerare l'unione bancaria, mentre Obama promuove i piani europei. Un commento a firma di Carlo Bastasin, intitolato La politica scelga l'Europa, integrazione e sfiducia. Un titolo a centropagina sul rimbalzo delle borse, lo spread che cala a 440 punti. C'è Poi ovviamente il punto sugli esodati, che è l'altro, uno degli altri grandi temi di questa giornata, perché la ministra Fornero ieri ha parlato di tutele per altri 55.000 cosiddetti esodati, cioè coloro che hanno lasciato il lavoro ma sono senza pensione sulla base delle nuove norme. Intanto il presidente di Confindustria Squinzi dice che la riforma del lavoro è una boiata ma ora va approvata e corretta. Interessante il dettaglio sulla cosiddetta spending review, ossia la revisione della spesa per quel che riguarda gli statali, perché secondo il Sole 24 Ore, il pezzo è di Marco Rogari, sono in esubero almeno 35-40.000 statali, quindi insomma sarà anche questo appunto tema di discussione con i sindacati, come è prevedibile che sia. Molto interessante in realtà il titolo di spalla scelto dal Sole 24 Ore, perché dà la misura della situazione finanziaria delle banche. Le prime 20 banche europee hanno derivati pari a metà del prodotto interno lordo europeo, ci informano Moria Longo e Antonella Olivieri, che infatti con questo servizio pur di spalla vanno a pagina 2. Nel 97% è speculazione, non copertura, una mina, scrivono, da 5.854 miliardi, l'ammontare dei derivati detenuti da 20 maggiori banche europee. Questo secondo uno studio elaborato da RES Mediobanca. All'introduzione di Basilea 3 invita gli istituti a rischio, il 97% dei derivati sono di natura speculativa. E l'analisi è di Donato Masciandaro, una spirale da fermare. Il Corriere della Sera parla dell'argine, un argine alla speculazione, G20, piano crescita, interventi per raffreddare gli spread. Massimo Gaggi si sofferma in un racconto su questo palleggio di colpe che vi abbiamo anche raccontato tra Stati Uniti ed Europa, USA-UE, duello sulle colpe. E a centropagina campeggia una grande foto di Hosni Mubarak, le notizie su Raïs nell'Egitto dilaniato, l'agonia di Hosni Mubarak, voci e smentite sulla morte. Il commento di prima pagina di oggi del Corriere della Sera, consigliato, quello di Antonio Polito, che parla dello spirito nazionale che manca, i sotterranei della politica, e quindi si parla naturalmente ancora una volta di questo strano sostegno alla così l'ha definita Monti, strana maggioranza di questo esecutivo. Anche qua il testo delle telefonate tra Mancino e il Quirinale sul tema della trattativa Stato e mafia. Un titolo sul lavoro, primo sì dei partiti, i paletti su esodati e flessibilità, e poi un pezzo sul caldo, i giorni di fuoco dell'estate italiana. Non male la chiave di lettura che dà il Corriere della Sera alla questione della maturità: i ragazzi del 93 nativi digitali alla prova antica della maturità. La Repubblica sceglie un'altra apertura: allarme casa, crollano le vendite, nelle metropoli si registra un calo del 20% nel primo trimestre dell'anno. Intanto è ancora polemica sugli esodati, il presidente di Confindustria Squinzi va all'attacco sulla riforma del lavoro definendola una boia. L'analisi di prima pagina è di Piero Ignazio ed è dedicata in realtà alla legge elettorale e sul perché conviene il doppio turno. Sempre dal G20 ci informa la Repubblica dello scontro tra Cameron e Hollande sulle tasse ai ricchi. Come si diceva, ampio spazio alla questione della trattativa Stato-mafia, centropagina, le telefonate segrete, le carte su Mancino e il ruolo del Quirinale. Mentre sempre la Repubblica ci informa che è pronto un blitz del PDL sulle intercettazioni. Il PDL vuole il voto sul provvedimento entro luglio. Questo il quadro per quanto riguarda la Repubblica. La Stampa anche qua titola sull'Europa nell'angolo, sul fatto che i prossimi 10 giorni sono decisivi. Il titolo su Mubarak è clinicamente morto Mubarak, l'ultimo faraone. È interessante il pezzo di Marco Zatterin, che racconta che per Cipro l'ultima speranza è Putin. L'isola vicina al crack è nell'euro, ma conta sui soldi russi per salvarsi. Ampio titolo anche sui cosiddetti esodati. anche qua i dati sulla casa, questo calo del 20% nel primo trimestre. Veniamo ad altri quotidiani. Il Messaggero ha i dettagli su tutto questo, tutto quello che vi abbiamo raccontato, ovviamente titoli anche sulla Nazionale, come potrete immaginare, ma anche una vicenda interessante: il rapporto ASL sulla discarica di Malagrotta, si indaga sui casi di tumore, più malattie per Malagrotta, potrebbero ammalarsi anche perché vivono accanto alla discarica, appunto, i residenti di Malagrotta. Questa è la storia che ci racconta in più il Messaggero. Vediamo qualche altra apertura, quantomeno apertura interessante e diversa da giornali come dire, più politici o di diverso orientamento, in questo caso di diverso orientamento, sia Avvenire, che titola su quello di cui vi abbiamo parlato poco fa nel giornale radio in apertura, ossia il naufragio degli immigrati, naufragati e venduti, i drammi dei migranti. Sono 7 dispersi a Otranto, i baby mendicanti vanno all'asta come oggetti. Quest'ultimo elemento emerge dal rapporto Europol, che denuncia la tratta di piccoli dall'est. A centropagina anche la riforma del mercato del lavoro. Il Fatto Quotidiano apre sulla trattativa Stato-mafia, volevano scippare l'inchiesta alla procura di Palermo, riunione del 19 aprile 2012 in Cassazione con il PG Ciani, il procuratore antimafia Grasso fa mettere a verbale: non esistono violazioni delle indagini per un intervento di avocazione. Chi l'aveva chiesto? Si sospetta, in questo caso il Fatto Quotidiano sospetta, il Quirinale. Il titolo è polemico sulla Fornero, su Fornero, sugli esodati dal cilindro della Fornero, altri 55.000, ma i consulenti di lavoro dicono che sono 370.000 quelli della platea potenziale. E sul, più o meno sulla stessa linea, l'Unità: esodati, Fornero dà i numeri, addirittura il titolo molto polemico, la ministra ammette di aver sbagliato, parla di altri 55.000 da salvaguardare ma non indica soluzioni. E qua a centropagina ci racconta l'Unità della manovra nel PDL per salvare l'Usi, perché oggi il Senato decide sull'arresto dell'ex tesoriere della Margherita. Riprendono le parole del presidente di Confindustria sia il Giornale che Libero, che ha definito, come sapete, una boiata la riforma del mercato del lavoro. Se è una boiata, non votatela. Così il titolo, l'apertura del Giornale, che mette anche una foto con tutti i leader del G20, gli inutili protagonisti del vertice G20, comprereste un'auto usata da questi? Chiede il Giornale. E infine Libero, la boiata di Monti, riforma del lavoro flop, Confindustria stronca la legge ma poi dice va approvata, il premier non può andare a Bruxelles a mani vuote. Insomma, l'arma dell'Italia coi partner europei è una fantoziana corazzata Potionkin. Le 6, 27 minuti e 24 secondi, ci fermiamo, ci ritroviamo subito dopo per le notizie in breve. Prima edizione. Le 6, 34 minuti, è il momento di Italia in controluce. Italia in controluce. È la mattina di Radio 24, oggi è il 20 di giugno, in studio Daniele Biacchessi. Abbiamo già anticipato l'11, cioè 2 giorni fa, inizia oggi la Mezzia Terme Trame Festival, il primo evento culturale in Italia dedicato ai libri sulle mafie, e proprio a Trame Festival c'è per noi Raffaella Calanda. La lotta alla mafia non doveva essere soltanto una distaccata opera di repressione, ma un movimento culturale e morale che coinvolgesse tutti, e specialmente le giovani generazioni, le più adatte a sentire subito la bellezza del fresco profumo di libertà che fa rifiutare il puzzo del compromesso morale, della indifferenza, della contiguità e quindi della complicità. È l'eredità di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, trasportata al di là dello stretto e messa in pratica in mezzo alla gente, oltre che nei palazzi di giustizia. È l'esempio concreto che i boss possono essere sfidati e sconfitti anche a casa loro e con l'arma che temono di più, le parole. Questa è la sfida lanciata all'Ndrangheta dal suo stesso feudo, la Calabria. Questa è la sfida di Trame, che dopo le piazze piene dell'anno scorso a Lamezia, quest'anno torna con altre facce ed altre storie di chi l'antimafia la fa ogni giorno, perché non è vero che non cambia mai nulla. Io credo che alle donne che appartengono a famiglie di 'ndrangheta incomincia a pesare la loro situazione. Intendono dare un futuro diverso ai loro figli. Come le parole delle collaboratrici di giustizia stanno scardinando il sistema delle cosche dall'interno, così le parole di denuncia nelle piazze di Lamezia puntano a colpire la consegna del silenzio, una delle regole centrali per la sopravvivenza di tutte le mafie e dell''ndrangheta ancor di più. Parlano le donne che vogliono consegnare un futuro migliore ai loro figli, si ribellano i preti che non accettano le imposizioni dei boss, si mobilitano i giovani che scelgono di fare i volontari per il festival e le loro storie, diffuse dai microfoni di Lamezia, diventano altrettante finestre aperte per far entrare il fresco profumo di libertà. Non a caso, infatti, Trame comincia e punta molto su quella che è una delle crepe più profonde nel muro dell''ndrangheta, la rivolta delle donne. Simona Napoli, ultima collaboratrice di giustizia, poi Giuseppina Pesce e Maria Concetta Cacciola. Se le donne decidono di cambiare vita all'interno delle famiglie, di aborrire i rituali, le consuetudini e la mentalità dell''ndrangheta, l''ndrangheta certamente avrà poco futuro davanti. Era Italia in Controluce, torniamo oggi alle 13.30 con nuove storie, nuovi reportage e nuove inchieste, naturalmente su Radio 24. Le 6:37 minuti e 50 secondi, dunque facciamo il punto sulla notizia della notte, ossia il vertice G20, e lo facciamo con la nostra Valeria De Rosa. Valeria, buongiorno. Buongiorno a te Simone e ai nostri ascoltatori. Allora, si chiude un G20 davvero molto duro, un G20 che ha visto tensioni diplomatiche molto forti, come da tempo non se ne vedevano, tanto che alla fine della prima giornata era saltato anche l'incontro tra Obama e i leader europei. Poi, messa sotto pressione, l'Europa ha dovuto dare dettagli sulle misure che intende varare per stabilizzare il proprio sistema finanziario e bancario in particolare e favorire la crescita. I dettagli che poi dovrà mettere nero su bianco la prossima settimana al vertice europeo, un vertice attesissimo. A questo punto, a poche ore dall'apertura dei mercati, sono stati gli Stati Uniti a venire, diciamo così, un po' più allo scoperto, ad essere più espliciti. Il segretario al tesoro americano Tim Geithner ha detto: gli europei stanno cercando di assicurare nel brevissimo periodo il varo di misure che appunto possano sostenere il proprio sistema finanziario e soprattutto far sì che paesi che stanno affrontando le riforme come la Spagna e l'Italia possano prendere prestiti a bassi tassi di interesse. Un messaggio che è stato accolto e ovviamente anche ulteriormente sottolineato dal presidente Barack Obama, il quale ha fatto capire che il messaggio è uno solo, e cioè fare presto. Now markets around the world, as well as governments, have been asking if Europe is ready to do. Quello che state sentendo è appunto la voce di Barack Obama, il quale parla in questo frangente dei mercati e di come i mercati abbiano guardato, stiano guardando all'Europa per capire quali misure adotterà, misure decisive per appunto per i mercati, per l'economia globale mondiale, ha detto Obama. Soprattutto Obama ha detto: siete voi che dovete capire che cosa succede in casa vostra e controllare quello che succede in casa vostra, perché il rallentamento dell'Europa fa sì che poi rallenti tutta l'economia globale, cosa che è da evitare in generale, ma ricordiamoci che Obama tra pochi mesi va a elezioni, quindi è un momento di grande tensione anche per l'amministrazione statunitense, quindi c'è bisogno che l'Europa risponda e risponda in maniera forte a questa crisi che la sta attraversando. E quindi Obama si è detto convinto che questa volta gli europei manterranno gli impegni presi in Messico. C'è da dire che a poche ore dalla chiusura del G20 già il New York Times è molto scettico sulla chiusura, sull'andamento di questo G20. I leader del G20, scrive, si sono detti uniti nello sforzo di rafforzare la crescita e l'occupazione, ma sembra abbiano fatto pochi progressi nel persuadere la cancelliera Merkel a abbandonare la propria opposizione a maggiori spese del governo per alleviare la crisi, e questo è appunto quanto ha afferma il New York Times. Noi dobbiamo dire che in questo momento i mercati asiatici stanno comunque rispondendo bene, Tokyo guadagna lo 0,9%, quindi a questo punto dobbiamo solo aspettare l'apertura dell'Europa. Vedremo che cosa succederà dunque sui mercati, grazie nel frattempo a Valeria De Rosa, e noi cambiamo argomento. L'altra questione in primo piano, naturalmente, è la sorte dell'ex presidente egiziano Hosni Mubarak. Ci colleghiamo con il Cairo con Ugo Tramballi. Ugo, buongiorno. Buongiorno. E grazie per essere in collegamento con noi, lo diciamo sempre soprattutto ai colleghi del quotidiano che insomma spesso finiscono tardi proprio per il mestiere che fanno. Vorrei capire innanzitutto che cosa si sa esattamente, perché le voci sono rincorse per tutta la serata di ieri. Si è parlato di un ictus, si è parlato di morte clinica, ma insomma non è realmente chiaro. È come un po' il risultato dell'elezione che stiamo aspettando da 3 giorni. E così pure anche le sorti di Mubarak. Prima l'agenzia di stampa ufficiale dichiara che Mubarak è clinicamente morto, poi gli avvocati di Mubarak dicono che è in coma, poi i generali dicono che invece sta male, sta molto male, ma non è in pericolo di vita. Esattamente come è l'Egitto oggi, cioè assolutamente nulla di sicuro, nulla di certo. Qualsiasi cosa avvenga aumenta la suspense, qualsiasi cosa aumenta l'incertezza, e non si sa, l'unica cosa che è certa è che agli egiziani questo interessa poco, nel senso che la notizia, anche sia pure falsa o comunque non corretta, perché Mubarak appunto non era morto, quando è arrivata in piazza Tahir era piena di fratelli musulmani che celebravano la loro presunta vittoria, e la cosa è passata quasi inosservata, nel senso che oramai per gli egiziani, anche per i sostenitori di Shafiq, del suo ex primo ministro, Mubarak oramai è un personaggio assolutamente del passato. Grazie Ugo Tramballi, vedremo se riusciremo ad avere aggiornamenti successivi appunto su questa vicenda. Intanto ti risentiremo tra poco anche nel giornale radio. Noi cambiamo di nuovo argomento e invece parliamo di quello che deve avvenire tra poco, ossia la prova della maturità. C'è mezzo milione di studenti chiamato alla prima prova della maturità. Noi ormai è un appuntamento tradizionale di Radio 24, il nostro Federico Taddia ieri ha fatto il suo programma notte prima degli esami, in onda fino alla mezzanotte, e ha raccolto moltissime voci eccellenti, famose, su come è stata la loro notte. Dunque iniziamo in realtà poi da un'intervista della nostra Maria Piera Ceci. Una trentina di secondi, sentiamo la maturità di Simona Ventura. Me lo ricordo bene, questo compito di matematica, perché fu veramente una cosa eccezionale. Ricordo la professoressa di Ventura che dispiacere che hai dimenticato l'ultima clausola, no, del terzo esercizio, erano tipo A, B, C, D, no? Le varie sì. Domande. E io la D non l'avevo vista, perché era nel foglio, nell'altro foglio non l'avevo vista, sa che mi dispiace molto. Io ho detto, oddio, adesso ho preso 5 per colpa di questa cosa, magari potevo prendere 6, e mi ha detto no, perché è 9, potevi prendere 10. Così Simona Ventura, sentiremo altre voci subito dopo la viabilità. Prima edizione. Le 6:45 minuti e 52 secondi, di nuovo una buona giornata da Simone Spezia. Dunque stavamo ascoltando le voci di maturità, vecchie e nuove, raccolte ieri dai nostri colleghi, anche da Federico Taddia, nella notte prima degli esami. Dunque andiamo da due lati opposti, se vogliamo, dal punto di vista anagrafico naturalmente, e iniziamo da una maturanda, da una maturata piuttosto recente, ossia Emma Marrone. Però mi ricordo che il giorno degli orali mi presentai con un mega stereo di quegli anni 80 e con la tesina in mano, e i professori mi dissero, ma Marrone, cosa stai facendo con la radio? Io scherzando dissi, guarda, male che vada vi canto una canzone, vi prego mandatemi a casa che voglio fare la cantante. Così Emma Marrone, lievemente diversa, la lievemente, insomma, parecchio diversa la maturità di Piero Angela. Dunque, il mio è lontanissimo. Nel 1947 a Torino, liceo D'Azeglio. Ricordo ancora il tema della maturità, che era il concetto di patria dalla polis greca allo Stato moderno. Era un bel tema, però forse noi non eravamo maturi per farne una trattazione. Credo che fosse anche un piccolo sondaggio sui giovani dell'epoca per capire dopo la guerra questa patria che fine aveva fatto. Così Piero Angela, ritorniamo sulla musica con Cesare Cremonini. Io comunque portai il mio stereo e mi ricordo che c'era la professoressa di filosofia che già un po' gli piaceva la canzone perché era più giovane, tutta, l'aveva già ascoltata alla radio, era uscita da un mesetto. Altri professori, tipo quello di matematica, che proprio era spazientatissimo, cioè non capiva cosa stesse accadendo, cosa vuole questo con uno stereo all'esame di maturità. E c'era un altro che batteva il piedino per tenere il tempo. Insomma, ho questi ricordi, questi flash, queste immagini. Insomma, come avete sentito, questa cosa di portarsi lo stereo all'esame di maturità, insomma, non so voi, ma evidentemente è abbastanza diffusa tra chi poi finisce per fare il cantante. Andiamo a chiudere questa carrellata di voci con un uomo di teatro, Bergonzoni. Venne da me il preside del mio collegio, io ero in un collegio, eccetera, e mi disse: hai bisogno di qualche cosa per una lezione di greco? Vada tranquillo, aiuti chi ha più bisogno di me. E presi Tremeno. Tremeno significa che mi fecero vedere, quando dai l'orale, le cose che ho fatto giuste, non le cose che ho fatto sbagliate. Andiamo dunque a chiudere così, con naturalmente gli in bocca al lupo per quelli che questa mattina sono all'esame di maturità. Chiudiamo dunque, un ringraziamento come sempre a Peter Bescapè in regia, Diego Rovelli in redazione. Un grazie a tutti voi per l'ascolto, da Simone Spezia ci risentiamo tra poco con il giornale radio.